I lavori di domani di Anna Marino. Come diciamo spesso, non basta usare i social per poter poi sapere lavorare grazie alle loro potenzialità. Ogni lavoro e ruolo avrà sempre anche in futuro il suo insieme di hard skill, competenze base, che tutti, nativi digitali compresi, dovranno imparare per essere efficienti. La vera differenza però riguarderà le soft skill o competenze trasversali: empatia, capacità di lavorare in team, capacità di gestire conflitti e così via. Queste sono le skill che i digitali nativi devono sviluppare per dare una vera svolta al loro percorso professionale. Uno dei metodi è il nano learning, evoluzione del concetto tradizionale di e-learning, una nuova modalità di apprendimento che prevede contenuti pensati per essere fruibili dai dispositivi mobili e non richiede più di un paio di minuti di attenzione. Fornendo rapidamente brevi nozioni su un determinato argomento, sfruttando le caratteristiche delle story di Snapchat e Instagram e risultando quindi particolarmente accattivanti per la generazione Z. Molte attività verranno sostituite dai robot, infatti, dall'intelligenza artificiale. Quello che rende unico un dipendente è quello che in grado di apportare con le proprie idee e la propria personalità, e questo è possibile solo se le aziende si impegnano a offrire formazione alle persone per sviluppare queste capacità. Come ci racconta Cristiana Battistuzzi, è necessario però un percorso per la specializzazione dei nativi digitali. Sentiamo quale proprio da lei. Visto che stiamo parlando di una generazione che da quando erano piccoli non sanno altro che essere nativi digitali, sono veramente degli esperti, deve esserci una formazione specifica che risponde alle ai loro requisiti, e questa formazione viene chiamata nano learning, che è, se volete, un'evoluzione del concetto tradizionale della formazione online, o cosiddetto e-learning. È una modalità nuova dove l'apprendimento viene dato e fatto in un modo molto snello, molto veloce, molto corto, al massimo 2 minuti, che può essere anche fatto su un modulo mobile. Questo cosiddetto nano learning, che noi come ditta Cornerstone abbiamo sviluppato, lo chiamiamo DNA, Digital Native Advancement, che veramente spunta e risponde alle domande di questa popolazione. Come si fruisce, insomma, di questo nano learning? È anche molto importante capire perché avete scelto dei piccoli insegnamenti, dei piccoli momenti. Il percorso è pensato e suddiviso in 3 parti che si possono completare entro un anno. E la prima parte si dirige ai primi 3 mesi del lavoro, veramente sono momenti essenziali per imparare. Poi nei prossimi 6 mesi i dipendenti dovranno imparare a relazionarsi con i colleghi, stabilire obiettivi, perciò veramente devono capire come stabilire questi contatti. A un anno ed oltre si può andare più nell'approfondimento di tutto questo. E il modo nel quale è fatto e sviluppato è quasi veramente prende in considerazione le tecnologie che loro conoscono, come Snapchat, Facebook, eccetera, però corti, con una piccola introduzione, un tema solo che si descrive e che si spiega. Un po' come i video su TikTok, un po' come diciamo i post, un po' come i caratteri di Twitter, tutto breve e molto efficace. Che cosa imparano in questi momenti? In questi momenti imparano come si devono stabilire e comunicare con i futuri manager, con i loro colleghi, perché loro sono abituati a avere delle risposte istanti, no? Usando questi metodi moderni. Invece, veramente per costruire delle relazioni non solamente con la gente della loro età, ma anche i colleghi più vecchi, devono avere e sviluppare queste competenze trasversali. Perciò un esempio può essere come puoi sviluppare e come puoi accettare il modo di comunicare con un collega, come puoi gestire e imparare a dare del feedback, ma anche come puoi connetterti all'obiettivo dell'azienda e vedere come puoi sviluppare il tuo proprio ruolo. Che cosa consiglia lei come competenze base? Una delle competenze veramente basali è poter lavorare in un team, veramente in un modo trasversale e molto ampio, ma anche capire e catturare il fatto che non ogni obiettivo e non ogni progetto sul quale lavoreranno sarà facile da gestire. Ci saranno dei conflitti e dovranno imparare a capire come gestire queste cose in un modo positivo che alla fine risulta in successo non solamente per loro ma anche per i loro compagni. Davvero importante anche capire se queste figure nativi digitali con una specializzazione sono molto ricercate secondo la vostra esperienza e dove si possono trovare le offerte. Sì, assolutamente, non dobbiamo dimenticare che alla fine di quest'anno quasi 25% di tutta la popolazione del mondo lavorativo globale consisterà proprio di questa generazione, esattamente proprio di questi nativi digitali. Però è veramente importante che una volta che entrano nel mondo lavorativo hanno il supporto e sanno veramente, hanno l'idea che sono presi sul serio e che veramente si possono sviluppare. Alla fine è un capitale umano, sono dei talenti che ogni reparto di risorse umane deve gestire, deve attarire e deve mantenere e sviluppare. Qual è la forchetta di guadagno per queste nuove figure anche a seconda della seniority? In questo caso diciamo sono tutti giovani, quindi diciamo che la specializzazione si calcola in tempi veramente brevi. Giusto, dipende un po' dal campo nel quale lavorano, però se veramente sono in grado di catturare e capire la mentalità e la cultura della ditta dove lavorano, questa forchetta si può sviluppare in un modo abbastanza veloce e rapido, cioè possiamo iniziare da 30K, 50, 70, in un modo molto rapido. Alla fine, visto che è una generazione diciamo molto omogenea, indipendente da dove si trovano, in Europa per esempio, le loro competenze che svilupperanno, che già hanno, saranno anche già riconosciute. Molto importante capire un po' come incentivate voi questa formazione, orientamenti, consigli, ecco un po' le tappe che non sono solo di 30 secondi, ma ci sono 3 mesi, 6 mesi, un anno oltre, e i dettagli del corso, i 27 corsi, hanno delle tempistiche ben precise. Sì, si possono veramente scaricare e accedere sui dispositivi mobili, sia online che offline, perciò non è necessario essere connetti all'internet sempre, si possono sfruttare e gestire quando volete. E per veramente trovare un esempio, potete trovare 3 o 4 esempi di questi moduli sul nostro sito cornerstone.it, cornerstone.it, fanno parte di un pacchetto dove potete trovare anche degli esempi. Se prendiamo per esempio la prima tappa, i primi 3 mesi, sono veramente degli argomenti e dei temi molto molto chiari, molto concreti, e che veramente danno una piccola introduzione come gestire colleghi, come lavorare nella compagnia e anche come sviluppare se stessi in un modo di rapporti con gli altri. Per esempio capire come gestire le relazioni a lavoro, come veramente anche comportarsi una volta che sei nell'ambito del lavoro e anche come ti puoi sviluppare. Sono gratuiti, sono fruibili in ogni momento, ecco, chi si specializza può fare anche esperienza sul campo. Una parte del pacchetto è gratuito come introduzione, se poi si vogliono sviluppare si compra un pacchetto e lì si può decidere su qual campo si vuole specializzare. Per esempio un approfondimento specifico sulle competenze trasversali più in dettaglio è una possibilità. In essenza questo pacchetto, i 27 corsi sono generici, diciamo, anche se sono dei temi specifici, però una volta fatti si può entrare in specializzazione in quattro settori diversi. Questi studenti, diciamo, che si specializzano e diventano nativi digitali advanced, quindi specializzati in queste nuove skill, sono molto richiesti e subito impiegati, è così? Esattamente, l'idea veramente è che già sono degli esperti nel mondo digitale, cioè già le competenze che portano ad ogni impresa le possono sviluppare. Una volta che hanno fatto questi corsi, loro sono veramente, direi, all'avanguardia, aiutare le altre generazioni che sono anche i loro colleghi a prepararsi per il futuro e mettere tutto in pratica. Perciò si stanno lavorando su un progetto internazionale dove il modo di comunicazione non è tradizionale, sempre faccia a faccia, ma è più un modo remoto. Loro veramente sanno come gestire e essere in grado di continuare col progetto e essere d'accordo veramente che riescono a completarli in un modo pieno di successo. E ogni lavoro e anche ogni ruolo avrà sempre un insieme di cosiddetti hard skills che tutti, anche la generazione Z o i digitali nativi, devono imparare per essere efficienti. E la vera differenza per futuro sarà veramente avere la padronanza delle competenze trasversali, le cosiddette soft skills. Per esempio l'empatia, capacità di lavorare in un team, capacità di gestire i conflitti. Ecco, sono proprio queste competenze che i digitali nativi devono sviluppare per dare una vera svolta al loro percorso professionale, oggi e anche per domani. Quindi sono i veri lavori di domani di persone come i nativi digitali che già naturalmente usano la tecnologia, ma in questo modo non solo la sanno usare ma la possono gestire e lavorare grazie alla specializzazione. Esatto, alla fine sarà questa generazione che sarà in grado di navigare il futuro con e insieme ai loro colleghi, perché loro sanno meglio di chiunque altro quali saranno gli ostacoli che verranno sul loro corso e come gestirli e rispondere in un modo migliore.